24 mattino di Alessandro Milan. 7:19 minuti, eccoci qua cari ascoltatori in diretta fino alle 9. Siamo anche su Facebook, ci trovate 24 mattino. Ieri siamo arrivati a 500 persone in pochi giorni che stanno dalla nostra parte, stanno con noi. Bene, bene, sempre di più. Ci trovate lì, Facebook. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio alle 8:30? Parliamo di politica in TV, i talk show, una politica sempre di più urlata. Vi chiediamo, secondo voi è troppo urlata, oppure capite quando i politici vanno in TV, quando si spiegano, oppure no, è troppo, si è passato il segno. Ne parliamo alle 8:30, voi votate su radio24.it nella home page, trovate il nostro sondaggio bianco o nero. Ne parliamo più avanti. Ed ora di cosa parliamo invece? Beh, i giornali si concentrano ancora sul caso Ruby. I giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 27 gennaio è la giornata della memoria, tra l'altro. Lo voglio ricordare, ne abbiamo parlato ieri, nella quale si ricordano i 6 milioni di morti uccisi nella Shoah. Giovedì 27 gennaio, Tremonti, federalismo irreversibile, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, accordo vicino tra governo e comuni, l'aliquota IMU sugli immobili al 7,6 per mille. Ma poi le nuove carte sul caso Ruby arrivate alla Camera sono su tutti i giornali. Corriere della Sera, nuove carte sul Premier e scontro. Per Repubblica, Ruby, così Berlusconi pagava le donne. Per Il Messaggero, caso Ruby, soldi e nuove accuse. Per La Stampa, Bondi, il governo si salva, dai PM nuove carte su Ruby. Il Giornale invece fa un attacco, eccolo qui, ancora fango, stavolta sulla Boccassini. Amori privati della Boccassini, la PM finì sotto processo al CSM perché è sorpresa in atteggiamenti sconvenienti con un giornalista di sinistra e si difese invocando la privacy. Mentre lite in casa Fini è il titolo di Libero. Oggi davvero è un po' sconcertante, magari una riflessione che faremo più avanti, vedere il livello del dibattito almeno proposto dai giornali, questo nel nostro paese. Intanto voglio partire dalle consuete segnalazioni di altro taglio, condannato a mantenere la figlia sposata. Questo lo troviamo sulla Stampa, pagina 19, la vicenda è della Cassazione. Ricorda Rosaria Talarico in questo articolo: i figli sono piezze core, diceva Edoardo, ma secondo la Cassazione si potrebbe dire che sono anche pezzi da 100 euro da sborsare mensilmente. Una sentenza della Corte Suprema ha stabilito che pur se sposati i figli possono avere ancora diritto ad essere mantenuti da genitori nel caso non siano autosufficienti. Insomma, bamboccioni forever. Tutto nasce dal ricorso di una madre separata a Ferrara che si è opposta al fatto che l'ex marito aveva sospeso l'assegno di mantenimento di 436 euro mensili perché la figlia era ormai laureata, la figlia era ormai sposata. Ma che è successo? Che la figlia ha deciso di conseguire un altro diploma di laurea. Poi anche lei ha avuto dei problemi di matrimonio, si è risposata in seconde nozze, insomma non poteva mantenersi, e dunque la Corte Suprema ha detto: il padre, anche se separato, quindi non sta più con la moglie, anche se la figlia si è sposata, anche se la figlia si è laureata, se non ha soldi per mantenersi, deve pagare. L'ex marito dovrà dunque mantenere la figlia sposata con doppia laurea e sposata, perché non ha i soldi per mantenersi. Condannato a mantenere la figlia sposata. Questa è la sentenza della Cassazione che fa discutere, la trovate sulla Stampa. Mentre fa già discutere ogni anno, è sempre così, in genere appena inizia. Questa volta alla conferenza stampa di presentazione, il Festival di Sanremo, non si sono presentati né Elisabetta Canalis e né Belen, le due star femminili di questo festival. E beh, il Secolo XIX in prima pagina, Festival, Belen sparita, è già in crisi. Non c'è Belen Rodriguez, scrive Paolo Crecchi, e prima ancora che si alzi il sipario piovono i fischi sul 61esimo Festival della Canzone Italiana, i fischi dei fan che ieri mattina si sono assiepati invano sotto le torri Liberty del Casinò, quelli dei fotografi. L'assenza di Belen perché della covalletta Canalis non sembra importare nulla a nessuno, è stata giustificata con l'esigenza di provare un balletto a Saxa Rubra. Fonti attendibili del secolo invece hanno confidato che 1. Gli organizzatori non intendono sovraesporre l'aspirante signora Corona. 2. Belen è infatti terrorizzata dall'appuntamento festivaliero, sta provando a imparare qualcosa, per esempio la danza, non potendo limitarsi a mostrare per 5 serate di fila le pur pregevoli terga come fa il cinema negli spot. 3. Il coordinamento logistico, che in una mattinata avrebbe potuto tranquillamente farla andare in Liguria e tornare a Roma, non si è rivelato all'altezza della situazione. Comunque ieri Belen è andata in TV dal Signorini nel programma Calispera insieme a Fabrizio Corona. Vuol dire che tempo ne aveva. Questo scrive il Secolo XIX. Insomma, già non si è ancora alzato il sipario, siamo alla conferenza stampa e già le polemiche, perché per la prima volta nella storia le due presenze femminili del Festival di Sanremo non si sono presentate alla conferenza stampa. C'è tempo forse per un'altra segnalazione da Libero. Beatrice Raspa ne parla a pagina 18. Ai giudici non va la Bossi-Fini, clandestini rimessi in libertà. È una vicenda interessante che interessa varie procure italiane, dopo Firenze e Genova, ora anche la procura di Brescia, che hanno deciso di applicare una normativa europea che in qualche modo supera la Bossi-Fini. E una normativa europea, che è una direttiva europea in tema di rimpatri, che è una norma mai recepita dall'Italia, è entrata in vigore però in Unione Europea dal 24 dicembre 2010, ed è questa direttiva squalifica il concetto di immediata espulsione a vantaggio dei cosiddetti rimpatri volontari o comunque di misure non coercitive a tutela della libertà personale. Cosa vuol dire? Traduco che sempre più procure, nonostante vengano arrestati dei clandestini, li lasciano liberi, perché dicono non esiste il concetto previsto da Bossi-Fini di rimpatrio forzato, perché questa direttiva europea, anche se non recepita dall'Italia, prevede che il rimpatrio forzato non esista, è una norma non applicabile, dunque vengono rilasciati questi clandestini in nome di questa direttiva europea, che è superiore dunque alla legge italiana. E questa interpretazione permette agli immigrati, anche se senza permesso di soggiorno, di essere liberati dalle procure italiane. Ai giudici non va la Bossi-Fini, i clandestini rimessi in libertà, così la vede Libero. Ci fermiamo e poi ripartiamo da cosa? Il livello altissimo del dibattito italiano, come detto, intercettazioni, ve lo dico subito, culi flaccidi, case date forse o forse no ai cognati, sesso in cambio di appalti e il PM Boccassini, che nell'82 aveva forse atteggiamenti sconvenienti con un giornalista di sinistra. Com'è possibile? Tra poco. In primo piano. 227 nuove pagine sul caso Ruby sono arrivate alla Camera e sono finite puntualmente sui giornali. Le troviamo tutte e davvero ci sono delle cose che susciteranno nuovo scalpore, nuove accuse, nuovi dibattiti, regali, gioielli e buste di soldi, l'ira della Minetti al telefono. Io le devo leggere perché questo è quello che propone il menù dei giornali. Sentite per esempio alcune intercettazioni. Nicole Minetti sbraita al telefono con l'amica Clotilde contro il Premier. Nicole Minetti parla così di Berlusconi: c'è un limite a tutto, non me ne frega un cazzo se lui è il Presidente del Consiglio, un vecchio e basta. Io non mi faccio pigliare per il culo così, si sta comportando da pezzo di M per salvare il suo culo flaccido. E poi ancora uno che fa così è un pezzo di M, perché lui mi ha tirato nei casini in una maniera che Dio solo lo sa, in cui io non ci sarei finita neanche se mi mettevo tutto l'impegno. Gli ho parato il culo e non si può permettere di fare così. E ancora più avanti, quando si cagherà addosso per Ruby, chiamerà e si ricorderà di noi, adesso fa finta di non ricevere chiamate. Questo è un SMS il 9 gennaio del 2011, 9 gennaio del 2011, 20 giorni fa. E poi un'altra vicenda, in queste carte si trova Maristel Polanco, una delle ragazze che andava ad Arcore, passa la macchina di Nicole Minetti che va in vacanza, prende in prestito la macchina di Nicole Minetti, la dà al suo convivente e quando viene fermato questo convivente viene trovato dagli inquirenti in una perquisizione 2,7 kg di cocaina nell'appartamento all'Olgettina, a Segrate. e poi un'altra partita di 9 kg di cocaina in cantina. E ancora, volete sapere in queste nuove carte cosa c'è? Per esempio il racconto di questa danzatrice del ventre che era presente in una delle serate ad Arcore, Maria, racconta una di queste cene, finisce la cena e il presidente dice: ora facciamo il bunga bunga, cioè una cosa sessuale. Mentre lei fa la danza del ventre, le gemelle De Vivo in mutande reggiseno, il presidente le tocca, loro lo toccavano nelle parti intime, si avvicinava anche a Emilio Fede, che toccava il seno e le parti intime, poi la ragazza brasiliana ballava la samba in maniera arda, il presidente le toccava il seno e le parti intime. Sono rimasta inorridita, se avessi saputo prima cosa si faceva in villa non sarei andata. Ma Lele Mora mi disse: per entrare nel mondo dello spettacolo bisogna pagare un prezzo, cioè vendere il proprio corpo. E poi Barbara Fagioli, un'altra delle ragazze presenti, in un SMS, o almeno in una telefonata, parla con la Minetti, beh, questa è la frase che più, se confermata, dà un po' fastidio, e dice: a lui gli fa comodo mettere te e me in Parlamento, perché dice: bene, me le sono levate dai coglioni, tanto lo stipendio lo paga lo Stato. E poi ancora la Minetti: questa è una roba che ti rovina la vita, voglio fidanzarmi, sposarmi, avere bambini, una casa, invece qui a litigare tutti i giorni con tutti, metterla nel a quello di fiducia a te, la politica è un casino, cioè cade lui, cadiamo noi. Questo è il sunto di tutte queste carte, di tutte queste 227 carte che trovate. Per Belpietro è una vergogna, i giudici trasformano in una soap opera l'inchiesta su Arcore, questa è in prima pagina di Libero. Repubblica punta sulla cocaina, quei 12 kg di cocaina tra casa Polanco e l'auto di Nicole Minetti, appunto la vicenda che ho raccontato anche in queste pagine. Secondo il Fatto Quotidiano la vergogna è che il summit del depistaggio è perché Berlusconi convocò il 15 gennaio, pochi giorni fa, ad Arcore le ragazze appena perquisite. Questo ci sarebbe, racconta Enrico Ferra, pagina 2, nelle 227 pagine. Sta di fatto che Nicole Minetti fa un'intervista molto accorata, molto sofferta, pare anche leggere la sofferenza nel piombo sul giornale, sul Corriere della Sera, a pagina 5, Giuseppe Guastella la intervista. Quelle cose non le ho mai dette, inizia così la difesa un po' improbabile, e Guastella dice: guardi che quelle frasi sono sue intercettazioni, sono sue parole. Bisogna vedere in quale contesto le ho dette. Quindi lei non le pensa, ma ci mancherebbe altro, mai pensate cose del genere. E poi dice: guardi, uno che non conosce il presidente Berlusconi pensa si tratti di queste cene di impegni seriosi, paludati, in cui ci si deve dare del voi. Per questo dicevo in una telefonata che volevo briffare una ragazza, no? Questo termine che ormai è entrato nella storia, ti devo briffare. Invece sono serate easy, poco impegnative. Sesso? No, assolutamente no. Cos'è per lei Silvio Berlusconi? Io sono un consigliere regionale del PDL, lui è il mio punto di riferimento. Non vi sentite più? Diciamo che non è il momento migliore per farlo. E infine, cosa vuol fare da grande? Voglio continuare nella politica, ma voglio anche sposarmi e avere dei figli. Non so se dopo tutto questo, e lascia così in sospesa la frase Nicole Minetti. Secondo la Stampa, Berlusconi è a dir poco adirato. A Mediola Mattina racconta, pagina 3, anche di un cavaliere amareggiato, scuro. Cotto lo definisce qualche suo, secondo la Stampa, qualche suo deputato vicino a lui. Un Berlusconi che sarebbe lasciato andare anche a questo sfogo. Parlano ancora al telefono, ben sapendo di essere intercettate, ma sono fuori di testa queste imbecilli, riferendosi alle ragazze che sono state intercettate in queste nuove pagine apparse. Poi i PM vogliono sputtanarmi, questo è un'altra frase raccolta da Francesco Bei, frase o comunque pensiero, retroscena di Berlusconi. Sta di fatto che lo sputtanamento certo ormai c'è, avete sentito le frasi che ho letto. A proposito di sputtanamento, la prima pagina del giornale che ho letto prima, beh, è davvero incredibile, con una vicenda che risale all'82, amori privati della Boccassini Salvini. Il Giornale racconta con Anna Maria Greco a pagina 3 di quando la PM finì sotto processo al CSM, racconta Il Giornale, fu assolta, va subito detto, si difese come paladina della privacy perché la vicenda che fu intercettata al telefono, ma fu vista da una guardia del tribunale a due passi dal palazzo di giustizia in un atteggiamento amoroso con chi? Con un giornalista vicino a lotta continua accreditato presso l'ufficio stampa del tribunale. Salteranno fuori altri episodi, racconta Il Giornale, si parlerà anche di rapporti con un cronista dell'Unità, il tutto collocato in un contesto preciso, quello degli anni di piombo. Poco prima, nel 79, tre anni prima, fu ucciso uno dei PM a Milano, cioè Emilio Alessandrini, ricorda Il Giornale, e quindi finì sotto processo al CSM, lei si difese invocando la privacy, fu assolta appunto, e Il Giornale ricorda questa vicenda, verità nascoste, amori privati della Boccassini. A proposito di altra vicenda, che cosa c'è? Beh, c'è tutta la vicenda della casa di Fini, la casa di Monte Carlo, la casa che ha, non di Fini, la casa che ha coinvolto Fini, la casa di Monte Carlo, perché oggi alle 10, credo, al Senato, Frattini, il ministro degli esteri, risponderà a un'interrogazione su queste carte venute da Santa Lucia, nelle quali, secondo i giornali, c'è la prova provata che questa casa apparterrebbe al cognato, a Giancarlo Tugliani, al cognato di Fini, tanto che Libero e anche Il Giornale pongono così. Libero in prima pagina è lite in casa Fini, secondo Tommaso Montesano in prima pagina è finita due giorni fa con il cognato che sbatte la porta, se ne va di casa, quella di Roma, ci sarebbe stato un faccia a faccia con urla, oggetti finiti in frantumi, un faccia a faccia tra Fini e il cognato. Questa la racconta anche Il Giornale, la casa di Monte Carlo sfascia casa Fini, scontro col cognato, lite furibonda tra il presidente della Camera e Tugliani. Oggi vengono presentate queste carte e a pagina 3 del Corriere il senatore Pontone, 83 anni, tesoriere di AN all'epoca, il caso Monte Carlo, colui che ha venduto la casa, torna a parlare con Fabrizio Roncone. In realtà inizia l'intervista dicendo: guardate, non insista, tanto sto zitto. Ma ho capito, senatore, lei firmò l'atto di vendita. Sì, fui io a firmare, allora mica ho mai negato questo. Senta, lei mi sta chiedendo se io sapessi qualcosa. Non sapevo nulla, anzi le dico di più, non avevo la più pallida idea di chi fosse questo Tugliani. Quindi, chiede Roncone, dobbiamo escludere che lei ricevette pressioni, Fini non le disse niente? Oh signore, mi ascolti, davvero, è inutile rivangare, lasciamo stare, è meglio. No, guardi, non lasciamo stare. Allora, io andai lì, trovai il notaio, due emissari della società Printemps, feci il mio lavoro, poi chi ci fosse dietro quei due emissari, francamente, non lo sapevo e non lo so. Scusi, chi aveva il potere di fare le valutazioni su quanto valeva la casa? Fini? Abbia pazienza, risponde Pontone sempre più spazientito. Dica, guardi, noi di AN non eravamo un'agenzia immobiliare, avevamo un patrimonio da gestire e facevamo quello, punto. Quella vendita fu un caso eccezionale. Può spiegarsi meglio? Gliel'ho detto, vendemmo solo quell'appartamento. Dicono che lei sia molto arrabbiato con Fini, senatore Pontone. Le rinnovo la mia richiesta. Mi lasci stare. Insomma, ora dimissioni chiedete a Gianfranco, questo è il titolo dell'intervista al senatore Pontone, tesoriere di AN all'epoca del caso Monte Carlo. Ma è una cosa incredibile, avete sentito il dibattito, ormai in Italia, poi c'è anche Bertolaso accusato di avere fatto sesso in cambio di appalti, c'è lo sfascio delle primarie del PD con Saviano che dice candidate ora il PM Cantone, che risponde a Rico su Repubblica, dice per carità io non sono fatto per fare il sindaco. Insomma, il livello del dibattito è intercettazioni su culi flaccidi, le fusioni presunte o no di un PM nel 1982, sesso e appalti, case forse date ai cognati oppure no, un dibattito davvero misero, tanto che Mario Calabresi oggi in prima pagina della Stampa, l'orizzonte di Obama è il nostro, il direttore della Stampa, il futuro non è un regalo ma una conquista, diceva Robert Kennedy, e ieri notte Barack Obama lo ha ricordato aggiungendo, saranno le scelte che facciamo oggi a condizionare il nostro destino. Se noi guardiamo dall'altra parte dell'Atlantico vediamo un paese che attraversa una crisi profonda, ma parla di progetti, prova a rialzarsi, a recuperare il suo posto nel mondo. Se guardiamo da questa parte dell'oceano, a casa nostra, non possiamo che provare vergogna per la miseria del nostro dibattito, privo di ogni idea, di progettualità, prigioniero dei vizi e degli umori dell'uomo che ci governa. Ogni anno il discorso dello Stato dell'Unione, che il Presidente degli Stati Uniti pronuncia a fine gennaio, serve a illustrare quanto è stato fatto negli ultimi 12 mesi, ma a indicare soprattutto la direzione in cui si muoverà il Paese. Gli obiettivi, l'agenda di una presidenza, di un'intera nazione, gli americani prestano poca attenzione agli elenchi di cose fatte. Se sono state realizzate o no riforme, hanno già avuto modo di accorgersene. Così l'orecchio è attento agli impegni e alle promesse, quelle che indicano la strada e serviranno a giudicare una presidenza alle elezioni successive. Insomma, questo al di là dell'oceano, racconta Calabresi, mentre al di qua dell'oceano la miseria del nostro dibattito che emerge dai giornali è davvero incredibile. Il traffico. In primo piano. Parliamo, se verrebbe da dire, cose un po' più serie. Tremonti ha parlato del federalismo, federalismo irreversibile. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che si concentra nelle prime 5-6 pagine sul telefisco, l'appuntamento che c'è annuale, che mette insomma tutti i protagonisti dell'impegno del fisco a confronto per cercare di dare delle risposte su un tema così importante. Tremonti ha parlato appunto di federalismo irreversibile, la riforma delle riforme, non un salto nel vuoto ma un passaggio verso l'Europa attraverso il ritorno in regola, anche se c'è da dire che sul federalismo c'è molto da discutere ancora, perché c'è la trattativa in corso per quel che riguarda l'ANCI, i comuni. Pare ormai, come racconta Eugenio Bruno a pagina 2, che il confronto tra governo e comuni abbia partorito questa cifra, l'aliquota dell'IMU, quella che sostituisce l'ICI, al 7,6 per mille. C'è anche un'intervista che Gianni Trovati fa al sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che è anche il presidente dell'ANCI. Al centro del tira e molla è proprio troneggia ancora l'IRPEF, la questione dell'IRPEF, che come abbiamo sentito ieri proprio dal Sole 24 Ore molti comuni a questo punto potrebbero anche alzare. Una polemica, certo, magari non di primo piano legata al federalismo, ma sicuramente una polemica che campeggia da giorni sui giornali, nel dibattito, ne abbiamo parlato anche noi, è quella invece della vicenda della tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno per le città culturali, le città di interesse turistico, che è già stata introdotta a Roma, dove dal 1 gennaio si paga una tassa in percentuale in base all'albergo in cui uno alloggia. Ebbene, ora c'è la presa di posizione molto forte del presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca, che viene sintetizzata per esempio da Corrado Ruggeri sul Corriere della Sera: resteremo chiusi nel 150enario dell'Unità d'Italia. Ecco lo sfogo, nessuno ci ha interpellato su una materia per noi vitale. Il 17 marzo, la data che celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia, rischia di diventare una festa amara per gli albergatori italiani, che dicono non accetteremo prenotazioni se il governo e l'ANCI non rinunceranno al tentativo di introdurre la tassa di soggiorno, uno strumento giudicato da noi vessatorio per i consumatori italiani e stranieri. Una minaccia senza precedenti, una minaccia molto molto forte. Su questo della tassa di soggiorno certo si profila un grande scontro. E per quel che riguarda invece il federalismo, ovviamente c'è da segnalare la Lega, che dice l'ultimatum di Bossi. Sapete che sul federalismo la Lega punta tutto, chi cerca accordi con noi voti il federalismo. Abbandonando la politica, la cronaca certamente fa registrare come pagine e pagine e commenti la vicenda della condanna a 24 anni al fidanzato di Simonetta Cesaroni, uccisa il 7 agosto del 1990 quando aveva 20 anni. Ieri alle 16 in punto la terza corte d'assise del Tribunale di Roma, dopo 24 anni, non 24 anni, ma un po' meno, 21 anni, ma insomma comunque dopo 21 anni, ha condannato a 24 anni Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, che ora si è rifatto una vita, una famiglia, ha due bimbi. Ci si chiede anche se sia giusto, a distanza di così tanto tempo, arrivare a una condanna in primo grado. Massimo Martinelli sul Messaggero racconta come fu quella vicenda che sconvolse davvero l'Italia. L'ammazzarono con uno schiaffone da dietro mentre Simonetta cercava di uscire dalla stanza in cui la trovarono morta. Cercava di sottrarsi al pericolo di una persona che la insidiava. Non urlò, non perse la calma, nessuno sentì strillare in quel caldo pomeriggio agostano. Semplicemente si era resa conto di aver fatto entrare nel suo ufficio di via Poma 2 un uomo che voleva aggredirla. Stava mangiando un panino al prosciutto che rimase sul tavolo, mentre lei era scalza con le scarpe sistemate una vicino all'altra dietro al tavolo, mentre lavorava il computer. Il ceffone le fece perdere i sensi, l'uomo le fu addosso, prima sopra di lei, poi al fianco, la spogliò per metà, ebbe pulsioni di libidine violenta, poi si accanì con la lama 29 volte, anche sul seno e sul pube. Per questo delitto, ripeto, è stato condannato a 24 anni dopo 21 anni dal delitto Raniero Busco. Così mi hanno massacrato e sviene in aula dopo il verdetto. Goffredo Buccini sul Corriere della Sera racconta in maniera più, nel modo più intenso, secondo me, dei giornalisti presenti ieri, quella che è la vicenda di Raniero Busco, appunto, due figli, a fianco a lui sempre la moglie, non l'ha mai abbandonato, a fianco a lui il fratello. Quando lui si affloscia come un pupazzo di plastica in golfino e camicia celeste, cui hanno tolto il tappino, dopo aver mormorato «è un massacro, sono una vittima», quasi sviene tra le braccia del fratello Paolo. Ora Paolo lo deve sorreggere. Non è una metafora, lo acchiappa sotto le ascelle, mentre quello sviene, tuona contro la corte con la sua voce da baritono popolano. «Ma che state a dì!» fende la folla di fotografi, cameraman, cronisti, tenendo il fratello sotto braccio come un canarino agonizzante. Infine insulta tutto e tutti, fuori dall'aula bunker dire Bibbia. Come sto? Ma che domande fate? Sto incazzato, sto. Nessuno in Italia si aspettava sta condanna, tranne quelle quattro teste di legno. Questa è una cosa che ammazza chiunque, vogliono ammazzare Raniero. Così mi hanno massacrato, sviene in aula dopo il verdetto la vicenda della condanna di Raniero Busco. Oh, mi fermo qui, il sondaggio di oggi, la TV in la politica in TV è troppo urlata, di questo parliamo, ci saranno con noi Lucia Annunziata e Alessio Vinci alle 8.30, mentre per l'intervista vi ricordo avremo Francesco Rutelli, leader dell'API, alle 8.20 dopo il GR. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, 8.22 minuti, voglio salutare il leader dell'Alleanza per l'Italia, l'API, Francesco Rutelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Senta, partiamo dalla mozione di sfiducia al ministro Bondi che non è passata, le chiedo, è una sconfitta per voi, per il terzo polo, per la minoranza? Guardi, la maggioranza, il Parlamento c'è, è una maggioranza scarsa, 314 deputati, quindi non fa neanche la maggioranza assoluta della Camera, ma c'è, lo sapevamo. La battaglia è una battaglia per la cultura, non contro il ministro pro tempore. Il ministro attuale non riesce a dare alla cultura, a battere i pugni sul tavolo per ottenere quello che è necessario. Lei consideri che siamo arrivati in un paese come il nostro allo 0,18 del bilancio dello Stato destinato alla cultura. Era già pochissimo quando c'ero anch'io, guarda. Io mi sono dovuto battere e non eravamo soddisfatti per avere una cifra sicuramente superiore. Se quest'anno noi non abbiamo i soldi per la cura, per la manutenzione, per tenere aperte le sovrintendenze, per i teatri, per le orchestre, per la situazione più diffusa nel mondo di patrimonio culturale, è un guaio per tutti. In realtà il ministro ha imputato a lei. Non ce la fa a farsi valere. In realtà il ministro imputa e ha imputato a lei, per esempio, ai tagli dei governi precedenti, dicendo dove era l'onorevole Rutelli, il ministro in quell'epoca. Questa è una frescaccia, naturalmente. Le ripeto, noi abbiamo sicuramente tutti i ministri di questi 30 anni motivo di dire si spende poco per la cultura in Italia e qualche volta si è speso anche male, ma certamente l'idea che oggi l'Italia trovi un taglio tragico che porterà a non fare neanche i bilanci dei teatri, degli enti lirici, come sta accadendo oggi, è una realtà e non la si può nascondere. Guardi, in Germania sono stati fatti tagli al bilancio dello Stato molto più pesanti che da noi, pur stando meglio la Germania, no? 81 miliardi in tre anni di taglio anche ai Länder, alle regioni, ma si è accresciuta la spesa per cultura, ricerca, università, scuola, formazione, tecnologia. Questo è ciò che noi imputiamo a Tremonti, ed è ciò che imputiamo a Bondi perché non si è fatto valere. Le chiedo, Rutelli, il terzo polo ora si incontrerà, credo, in questo weekend a Todi, vale a dire voi dell'API, UDC e Future Libertà. Sareste pronti e siete pronti anche a un eventuale voto? Assolutamente sì. Ma secondo lei questo è il piano inclinato verso cui si va? Avrà letto i giornali anche oggi questa vagonata di nuove carte, intercettazioni, fango un po' dappertutto che si sparge? Guardi, io non credo che se si votasse sarebbe per le signorine che frequentano veramente in modo improvvido le residenze del Premier. Credo che sarà per la crisi economica, ovvero il punto delicato, drammatico nel nostro paese è che tra breve ci sarà nuovamente richiesto di fare una manovra economica per raddrizzare i conti, questo è il punto. E allora una maggioranza che è così fragile, perché vede, noi abbiamo avuto una sinistra che è andata male, e io ho fondato assieme a Tabacci e a molti altri questo movimento Alleanza per l'Italia, puntando a costruire questo nuovo polo, perché a sinistra abbiamo vissuto il ritorno al passato, ma a destra c'era una coalizione con Berlusconi, Fini, Casini, Bossi, sono rimasti Berlusconi e Bossi. E non ce la fanno loro, come non ce la farebbe una sinistra che debba dipendere da Di Pietro e Vendola. È evidente che in una situazione così difficile oggi in Italia occorrerebbe un governo di larga convergenza per fare le riforme economiche necessarie. Allora Berlusconi può essere tentato dall'andare con la sola Lega ad elezioni perché non se la sente di riproporre le misure di riforma, anche scomode, anche difficili, necessarie per la crescita economica, senza la quale l'Italia e il lavoro e l'occupazione vanno a picco. Senta, le chiedo come ultima cosa, oggi si parla anche al Senato della vicenda annosa della casa a Monte Carlo, se si dovesse da queste carte verificare che effettivamente dietro questo acquisto c'è il cognato di Fini, secondo lei Fini dovrebbe dimettersi? Guardi, se noi vediamo quello che sta accadendo ci rendiamo conto che da 6 mesi stiamo discutendo di un appartamento di 160 metri quadri, non so di cosa stiamo parlando, di pertinenza di un partito politico tra l'altro, non c'è nulla di pubblico. Comunque Fini ha fatto delle dichiarazioni, si è rimesso al giudizio della magistratura, io non ho motivo al mondo per dubitare della sua correttezza, e lo ha detto lui per primo che è pronto a prendersi la sua responsabilità anche per una cosa di questo rilievo, di questo profilo, che è evidentemente una faida, mi scusi, no? Sì. All'interno di una vicenda politica di cui a me non interessa proprio nulla, a me quello che interessa è l'Italia cresce lo 0,%, perde posti di lavoro, perde competitività, i nostri giovani hanno delle difficoltà enormi, penso che dovremmo unirci i moderati del centrodestra e anche i moderati del centrosinistra e questa nuova formazione che sta nascendo, unendo persone appunto come Casini, Fini, io stesso ed altri che credono alla necessità che l'Italia recuperi la sua forza e recuperi anche la sua unità sui grandi valori e sulle necessità della crescita economica e del lavoro. Invece stiamo a discutere della casa di Monte Carlo e dell'elenco delle signorine e del loro abbigliamento in queste notti un po' dissennate di Arcore. Guardi lei se possiamo presentarci così davanti al mondo. No, il dibattito è francamente un po' misero, almeno questo appare sui giornali. Invece, guardi, noi siamo partiti dalla cultura, oggi è la giornata della memoria, un giorno nel quale il mondo si interroga giustamente sui rischi che possono sempre tornare dell'intolleranza, perché guardi che le persecuzioni verso i cristiani oggi, no, nel mondo, ciò che sta accadendo in molti paesi del Medio Oriente, del Mediterraneo, in Libano dove ci sono nostri soldati, molti nostri soldati, il Libano rischia di riaffacciarsi alla guerra civile, perché se viene un governo di soli sciiti, no? Soltanto di una parte, lì rischia di incendiarsi la situazione. Allora abbiamo bisogno di un'Italia che nel cuore del Mediterraneo, ma ancorata all'Europa, sia interlocutore autorevole. Noi qui parliamo solo con Gheddafi, ma ci rendiamo conto che davvero siamo un paese importante, dobbiamo occuparci dell'avvenire ai nostri figli. Ecco, questi temi a mio avviso dovrebbero formare la convergenza di forze responsabili per raddrizzare la situazione. Per ora, temo che ci occupiamo di altro, almeno vedendo i giornali. Ma come si fa? Intanto io la devo salutare e ringraziare, io Francesco Rutelli, per essere stato con noi. Francesco Rutelli è leader dell'Alleanza per l'Italia. Grazie, ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo della politica in TV. È troppo urlata? Vi chiediamo il nostro sondaggio. Io immaginavo, per ora è un plebiscito, il 93% di voi dice di sì. 24 mattino. La domanda che vi poniamo oggi è semplice: secondo voi la politica in TV è troppo urlata? È il nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Lo trovate anche su Facebook, ci trovate anche lì, e devo dire che il 93% è abbastanza un plebiscito, il 93% dice di sì. Ne vogliamo parlare con due personaggi della televisione che la fanno tutti i giorni, la conoscono molto bene. Lucia Annunziata, che conduce in mezz'ora su Rai 3, buongiorno e ben ritrovata Annunziata. Buongiorno. Così come voglio salutare Alessio Vinci, che conduce Matrix su Canale 5, buongiorno Alessio. Ciao, buongiorno Alessandro. Allora, buongiorno Lucia. Eccoci qua. Allora, da cosa voglio partire? Beh, voglio partire, l'ultima incursione. Ne abbiamo fatto un piccolo mix, un piccolo taglio, anche un po', no? Il meglio del meglio, per essere concisi. Onorevole Berlusconi, è in linea? Eccomi qua, Santoro. Buonasera, la saluto. Allora, complimenti per questi processi in diretta. Allora, se lei non rimuove il vincolo, lei non può parlare stasera. Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Buonasera, chiedo scusa, ma francamente certe cose non si riescono a sopportare. Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Vespa. Buonasera. Sento parlare la signora Rosy Binti. Sì, dice che è gravissimo, è sempre quello che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. No, la prego, la Presidente, la prego. Buonasera al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, bentornato a Ballarò. La ringrazio, ma il mio è un ritorno di protesta. Allora mi lascia terminare la frase oppure no? Con la solita prepotenza, lei crede che la RAI sia sua, mentre pagata coi soldi da tutti gli italiani? Le dico semplicemente, siete dei mistificatori. Allora. Buonasera Presidente Berlusconi, mi sente? Sì, buonasera. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Finisco, invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. Allora, Lucia Annunziata, abbiamo messo un po' un pupurri, ovviamente molto conciso, no? In realtà gli interventi erano più lunghi. Volevamo partire da qui, insomma, dalle incursioni del Presidente del Consiglio? Per fare che considerazioni? Le incursioni del Presidente del Consiglio mi sembrano che al momento siano quelle più urlate, no? Quindi voi, il tema del giorno è la televisione troppo urlata. Questo, spezzoni, questi vari spezzoni provano che uno dei maggiori elementi, non dico l'una o l'unico, ad aver alzato notevolmente il tono sono state proprio le incursioni televisive. Ora non era urlata, ma vi ricorderò anche il fatto che l'onorevole Berlusconi 4 anni fa andò via dalla mia trasmissione. Sì, beh, certo, come facendo notizie, come mondiali, quindi sì. E la mia era una trasmissione super pigolata, non direi mai urlata sostanzialmente, no? Quindi credo che il fattore Silvio sia molto forte. Quella è un'altra tendenza, ma perché si arriva a questo? Cioè, giornalisti che abbandonano, politici che abbandonano la trasmissione. Credo anche Alessio Vinci, è successo da voi, no? Anche che credo in questo caso un giornalista, Beppe Severnini, se n'è andato. Anzi, lui addirittura se n'è andato prima ancora di infatti. Poi gli ho cercato di spiegare, insomma, non voglio assolutamente fare una polemica con Beppe Severnini. Poi non è che qui sembra soltanto facciamo come se fosse soltanto Berlusconi che strilla in TV. Io credo che Berlusconi è accompagnato da tanti altri, da un clima francamente che ormai ha superato le righe e ha superato i toni, e non soltanto per quanto riguarda la modalità ma anche il linguaggio che viene utilizzato. Cioè ormai, guarda, ti racconto un piccolo aneddoto. Quando io sono arrivato a Matrix mi sono così confidato con alcuni amici che lavoravano nel mondo della TV, che erano autori di programmi di dibattiti televisivi, e chiesi, insomma, allora mi dai un consiglio, una cosa. L'unico consiglio che ho sentito all'unanimità era: guarda, devi sedere e devi cominciare a scrivere giù chi litiga contro chi, Se tu non trovi due ospiti, uno che litiga contro un altro, non riuscirai mai a fare ascolti. E la cosa un po' che mi sorprende del sondaggio che tu hai fatto questa mattina, cioè del 93% della TV urla, però uno mi deve spiegare come mai allora le trasmissioni dove si urla, le trasmissioni dove succedono questi scontri verbali, poi sono quelle che hanno più ascolti. Certo, no? sono quelle più seguite. È un po' come quello che dice non guardo mai l'incidente, no? No, siamo tutti per strada a guardare l'incidente. Vorrei chiedere, Lucia Annunziata, è la politica che è arrivata a un livello trasceso di un dibattito francamente ormai misero che si trasporta in TV con tutti i suoi vizi e le sue poche virtù, magari dal punto di vista del dibattito, oppure è la TV che cerca questo? Ma io direi, su questo credo Alessio ci possa dire varie cose, nel senso che la tendenza della TV a urlare per fare ascolti non è autoctona, non è italiana, in America abbiamo una deriva di questo genere da moltissimi anni, solo che i grandi talk dove si urla e pigola, dove si urla e litiga, in Italia sono stati trasportati alla politica. Questa è la vera differenza, cioè in termini semantici il talk popolare che viveva del litigio, dell'emozione, del tirar fuori la pancia tra le persone facendo parteggiare a casa, in America ci sono fin dagli anni 60 insomma, in Italia è stato trasportato alla politica. Questo ha a che fare invece poi con la particolare deriva che ha avuto la politica in Italia. Non parlo solo di Berlusconi, di deriva parlo proprio di come è cambiato dal 93 in poi la politica, la seconda pubblica, ecco. Addirittura negli ultimi tempi, non so, alcuni giornali, l'Unità per esempio, ma anche Repubblica, qualcuno dice, chiedo all'Annunziata, che è una precisa strategia, soprattutto per questa vicenda Rubi, una precisa strategia che sarebbe studiata a tavolino addirittura come stratega della comunicazione del Presidente del Consiglio, di dire ai suoi andate e litigate, l'importante è che non esca la verità. Addirittura dobbiamo credere a una cosa del genere, che sia pianificata. Ma io ex post, come dire, si può razionalizzare su tutto, insomma, non c'è dubbio che il Premier è stato, come tutti sappiamo, diciamo, l'autore di una televisizzazione della politica, ed è ovvio che per esempio è molto interessante, in particolare viene fuori in questo ultimo caso, è ovvio ai suoi occhi che è in televisione e nei media, ma soprattutto in televisione, che ha impostato la sua campagna difensiva piuttosto che andare dai giudici, cioè il problema del un premier che sostiene che i giudici non hanno legittimità nel fare le loro inchieste può solo che fare appello all'opinione pubblica. L'opinione pubblica è quella televisiva ed è ovvio che tutta la sua campagna passa attraverso la televisione in maniera anche aggressiva, difensiva, eccetera. Credo che ci sia questo di dire strategie fatte, eccetera, eccetera. Io sono sempre un po' dubbiosa su, come dire, le razionalizzazioni. Sì. Vediamo, Alessio Vinci, effettivamente, sapete, ha avuto una storia, si è formato molto alla CNN, insomma, la televisione mondiale per eccellenza, internazionale per eccellenza, è davvero così? Cioè, facciamo un confronto con quello che succede negli altri paesi. Ci sarebbe mai stato un autore negli Stati Uniti a dirti, devi trovare due che litigano? A meno che quell'autore non lavorasse per un programma, per esempio, di grande successo che ha avuto la CNN negli anni quando lavoravo io, che si chiamava Crossfire, cioè scontro fuoco, no? Dove c'era dichiaratamente uno che stava di qua, uno che stava di là. Quello è il format, chiaramente no, però tu, era molto interessante, parlavi di strategia, no? Come se Berlusconi o chi per lui avesse in qualche maniera istruito i suoi andare in TV e urlare, e io credo che ci sia proprio una capacità di chi va spesso in TV, e non sono soltanto, diciamo, i berlusconiani, ma parlo di tutti quelli che vanno in TV, che vediamo, perché poi alla fine, cioè, Lucia lo sa, no? Chi va a parlare in TV sono sempre quei 20-25 ospiti, insomma, no? Poi ogni tanto ne emerge uno nuovo, insomma. Ecco, loro invece secondo me sono ben allenati e capiscono perfettamente come funziona il mezzo televisivo, quando interrompere, come interrompere. Per esempio, capita spessissimo di vedere dei grandi litigi e poi magari uno degli ospiti che sta per ascoltare vede che la regia lo inquadra, allora comincia a scuotere la testa. Cioè, c'è tutta una preparazione che secondo me ormai i politici che vanno in TV hanno imparato, ma hanno imparato semplicemente non perché qualcuno gliel'ha insegnato, ma perché ormai da diversi anni a questa parte, ma direi soprattutto in questi ultimi 2 anni, io parlo, sono qui da 2 anni, quindi posso soltanto parlare per quello che ho vissuto sulla mia pelle, diciamo, anche in questi 2 anni, c'è proprio una capacità di comportarsi in TV che va al di là di voglio dire questa cosa, voglio cercare di spiegare quali sono le mie opinioni, e poi chi ci guarda a casa si può fare un'opinione. Ormai non siamo più arrivati, cioè ormai i nostri programmi televisivi non sono più fatti per informare, cioè noi vi diamo le due posizioni e poi voi a casa decidete. Ormai i programmi TV sono i due schieramenti uno contro l'altro, poi chi guarda che stava con Berlusconi all'inizio del programma rimane con Berlusconi, certo. Chi stava contro, abbastanza, con Berlusconi. È abbastanza drammatico che sia così, cioè nel senso... Ma ti dirò di più, guarda, che quando poi i due ospiti litigano, quando si va a uno stacco pubblicitario oppure la trasmissione finisce, ci stringono la mano, si abbracciano, allora ci vediamo domani in Parlamento, cioè è una cosa incredibile, succede anche questo, cioè il litigio è quasi propedeutico alla trasmissione televisiva. Sì, sì, fa parte del format, è una parte del format. Ed è drammatico, lo dico con grande tristezza, francamente, perché io stesso rimango a volte vittime di appunto grandi litigate, di toni troppo alti che non riesci poi più a gestire. No, su questo forse Luciano Nunziata vuole dire qualcosa su a replicare, cioè è davvero così, quasi... voglio però dire, insomma, che io per esempio faccio un programma che non è urlato, è un programma che non ha, diciamo, magari è un programma duro, ma duro diciamo sulle domande, sì. Diciamo abbastanza, però ed è un programma che per fare mezz'ora tocca i 2 milioni, francamente c'è anche un po' di audience, sostanzialmente non possiamo dire che va male. Io credo che ci sia anche una scelta dei nostri colleghi, c'è poco da fare. È una scelta anche dei colleghi. C'è un problema, la politica si è diciamo si è fatta extra parlamentare, questo diciamo è il grande trend, e l'informazione si è politicizzata in maniera extra parlamentare, cioè il problema è questo. Ormai la politica, con l'alzarsi dei toni della politica e il suo decadere, perché guardate stamattina se leggete i giornali c'è qualche cosa di veramente sconfortante in quello che sta succedendo, ma non tanto nella questione delle intercettazioni, ma in quello che si legge nelle intercettazioni, perché stiamo parlando di cose veramente gravi. È difficile rispetto a questo andazzo della politica non alzare i toni come giornalisti. È vero però che i giornalisti hanno seguito la politica sull'andazzo dell'extramenia fuori dalle mura tradizionali. L'extramenia. Diamo le informazioni sul traffico, perché poi quelli che sono i giornali oggi davvero sono uno spaccato di incredibile di quello che sta succedendo nel dibattito politico in Italia. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, sono 94% chi dice la politica in TV è troppo urlata. Allora, c'è l'Egitto in fiamme o comunque in tumulto, c'è la Tunisia con dei problemi, c'è Obama che invita alla crescita, a guardare al futuro. No, in Italia le prime 15 pagine dei giornali oggi sono le intercettazioni di Colminetti che pare del culo flaccido del Presidente del Consiglio, di Bertolaso forse sesso, appalti eccetera, la casa a Monte Carlo, la Boccassini scrive il giornale nel 1982 fu trovata forse nei pressi del Palazzo di Giustizia che si baciava con un giornalista di sinistra. Cioè, questi sono... Allora io chiedo ad Alessio Vince e Lucia Annunziata, se questo è il livello del dibattito, che cosa poi si può chiedere alla TV? Alessio. Esatto, è proprio questo il problema, cioè se tu poi arrivi alla sera dove fare un programma televisivo e vorresti per esempio fare un programma su perché c'è l'Egitto in fiamme o prima la Tunisia o su quello che sta cercando di fare Obama negli Stati Uniti, chiaramente sembri che arrivi dalla Luna, no? Quindi chiaramente questo diventa sempre un problema. E l'altra domanda che bisogna farsi è: ma è un problema della TV o è un problema anche dei protagonisti della nostra vita, del nostro quotidiano, che possono essere da una parte i magistrati che per poter portare Berlusconi in tribunale mandano delle intercettazioni dove si parla del suo, scusami, culo flaccido, piuttosto che non dei politici appunto che reagiscono in maniera sopra le righe, addirittura strillando, addirittura intervenendo in televisione e comportandosi come ha fatto il Presidente del Consiglio nella trasmissione di Lerner. Cioè ormai è un cortocircuito. Sì. Io descrivo spesso questo come il MAD, il Mutual Assured Destruction, cioè quel momento in cui le due parti, no, durante la guerra fredda si sarebbero distrutte reciprocamente, perché ormai le armi nucleari puntate sono state lanciate. Sì. Quindi stiamo semplicemente aspettando che i missili arrivino, che atterrino sia da una parte che dall'altra, si azzera tutto, e io spero che poi si possa ricominciare a parlare delle cose interessanti, perché poi io sono sicuro. Ma perché sarà anche interessante leggere queste cose? Sarà anche interessante, più divertente, più semplice, più facile, quello che vuoi tu, per carità, no? Non, non c'è dubbio. Ma poi riguardano, ecco, cioè c'è una vicenda. Il problema è questo, Alessandro, non dobbiamo neanche fare i finalisti, per carità. Cioè, tu stesso stamattina nella tua rassegna hai letto diversi brani e sono sicuro che uno si stava lavando i denti, magari si è fermato con lo spazzolino per sentire i dettagli. Non c'è dubbio che tutto questo va anche bene. Il problema qui, come tu hai ricordato, è che è soltanto questo, cioè pagine, ore. Cioè, allora a questo punto qua all'estero non è che tanto diverso, cioè in Inghilterra non è che se c'è uno scandalo sessuale i giornalisti fanno una marcia indietro. Ah, no, ma perché? Però ecco, hai capito, cioè c'è una misura, qui sembra non esserci più la misura, abbiamo perso veramente il... Sentiamo che ne pensa Lucilla da Roma, ci ha chiamato all'800240024, Lucilla, sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. No, niente, io volevo dire che alla fine noi che siamo a casa e seguiamo questi dibattiti non capiamo poi alla fine il messaggio politico che arriva quando iniziano ad urlare. Perché? In questa Perché? Maniera. Beh, ma non è, adesso non è che però per due ore si urli e basta. Beh, guardi, io sono una casalinga, la mattina ho molto piacere a seguire una trasmissione che si chiama Agorà. Sì, su Rai 3. All'inizio era una trasmissione molto piacevole da seguire, ultimamente hanno iniziato anche loro ad urlare, eccetera, anche ieri. Alla fine, per veramente un quarto d'ora abbondante, non riuscivo più a capire quello che volevano dire. È quella dove la Santa Anch'esse è andata, ma è andata via anche da Anno Zero. Andrea, va bene, grazie Lucilla. Andrea da Roma, lei che dice? Sì, volevo dire che io sono abbastanza in linea con quello che diceva l'Annunziata, perché credo che poi alla fine tutto sta nella scelta del conduttore di scegliere gli invitati. Cioè faccio un banalissimo paragone, come se un musicista o un artista che proponesse soltanto esclusivamente quello che vuole la piazza o i suoi fan. Tante volte bisogna andare anche oltre e proporre qualcosa. Quindi io spero che si ritorni ai contenuti e si arrivi veramente al contenuto, perché tante volte, per esempio, faccio sempre sulla riforma universitaria, volte tu vedevi dei dibattiti certo, e c'erano delle contrapposizioni e non capivi effettivamente nessuno la sapeva, nessuno, nel senso la maggior parte di chi vedeva non sapeva cosa c'era scritto in realtà in quella riforma universitaria, però bastava dire sono a favore o sono contro, ma di cosa? Se uno avesse chiesto agli ascoltatori ma di cosa si sta parlando? Ah boh, non lo so, però vedo che il politico che vota è a favore, allora sono a favore anch'io, oppure è contro, sono contro. Luciano Nunziata, qualcuno ci ha ricordato via SMS che anche tu hai lasciato Anno Zero una volta, ma per un'altra vicenda, quella, la vicenda di tensione. No, ma io l'ho lasciata ovviamente per una ragione molto semplice, e lo dissi subito. Reagì non a un dissenso politico di Santoro, ma reagì a un'insinuazione di Santoro, sì, che, come dire, sulla mia onorabilità, perché se voi vi ricordate si parlava di Israele, si Palestina. Parlava di Israele e lui mi disse quali interessi sei venuto a servire qui, francamente, siccome non credo di servire la Mossad, la CIA o chissà che, perché non si capisce, cioè a un certo punto sono andata via, perché questa roba è una questione di insulti personali. E poi ero arrabbiata, ma io non penso che andar via sia un errore, diciamo. Quindi Berlusconi non fece un errore. Secondo me sì, lui non fece un errore, era una sua libera scelta, voglio dire, ovviamente per un politico interrompere un'intervista, essendo i politici legati all'obbligo di trasparenza in pubblico, cioè dover esprimere le proprie opinioni. Un passo, molto grave, un passo sicuramente. Insomma. Però se vi ricordate, non ci ho fatto un numero, non ci ho costruito sopra una carriera da evita. No, questo no. E credo però, ho fatto questa battuta perché io credo che noi dobbiamo anche fare un discorso sulla responsabilità dei giornalisti e ci dobbiamo tornare su questo. Su questo sì, io devo chiudere, però Lucia, non farei appunto il mio lavoro di giornalista se non facessi una domanda sulla questione di Napoli, perché le primarie sono allo sfascio. Saviano ha detto candidiamo Cantone, ma io avevo letto sui giornali che Lucia Annunziata era una potenziale candidata alle primarie per la sinistra a Napoli. Secoli fa, cioè vai. No, vabbè, ma adesso conosco... è tutto no, ancora un po'. La proposta, no, questo non c'è. Mi è stato proposto dal PD di fare anche il candidato unitario, devo dire molto carinamente, Napoli è la mia città, però io non penso, glielo ho detto, che si possa saltare dal lavoro, dal desk di mezz'ora al desk di Palazzo San Giacomo, ecco, mi sembra. Quindi no, la risposta è no. No, no, è no. Stato no, allora no, adesso. Se dovessi far politica, siccome io vengo dalla politica, l'ho detto, farei un'operazione diversa, lascerei in tempo il mio lavoro da giornalista e mi metterei a ricostruire un bel po' di tempo prima un percorso politico. Credo che questa sia la correttezza. Grazie, grazie a Lucia Annunziata, in mezz'ora sulle tre, grazie ad Alessio Vinci, conduttore di Matrix su Canale 5, per essere stati con noi. Spero interessante il dibattito. Su Facebook continua, ci trovate. Il 94% dice no, no, la politica in TV è troppo urlata. Ascoltate la radio, che noi qui siamo pacati, tranquilli, con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapella Alpino. Oggi gli facciamo le foto alla sua penna nera e poi la troverete su Facebook. In regia, e che dire, do la linea a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domani alle 7:20.